gentle silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Ebbene sì, Bohemian Rhapsody su Movieland questo pomeriggio, questo bel sabato. Vi ricordo che questa canzone è stata utilizzata nel film Wayne's World, Fusi di testa, con il grandissimo Mike Myers, e quindi eccola qua. Però comunque sarebbe bene in qualsiasi film questa colonna sonora, perché questa canzone dei Queen è bellissima. Permettetevi di fare un disannuncio postumo della canzone precedente, quella con cui abbiamo iniziato il programma. Era Cher Lloyd con Swagger Jagger e veniva dal film del 2013 Io sono tu, una curiosa commedia americana sul furto d'identità, molto carina nei cinema in questi giorni. Se nel vostro cinema vicino a casa c'è ancora, andatela a vedere, perché è veramente molto simpatica come pellicola. Benissimo, e continuiamo, perché abbiamo una bella notizia. Una bella notizia che ci viene direttamente dal web. Infatti Spike Lee è sbarcato da un po' di mesi su Kickstarter. Ecco perché il regista ha scelto il crowdfunding per finanziare il suo nuovo progetto. Infatti il regista afroamericano Spike Lee, il regista, ricordiamo, di Fa la cosa giusta, Malcolm X e Jungle Fever, per il suo nuovo progetto ha deciso di affidarsi alla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Vi ricordate, ne abbiamo parlato un po' delle piattaforme di crowdfunding. Il film è ancora senza titolo, ma parlerà di sangue e non sarà una storia di vampiri. Nel video di presentazione gli spiega perché ha approdato a Kickstarter. Un regista così famoso infatti ha attirato anche su di sé delle polemiche. Lui dice che il clima Hollywood è molto cambiato, fumetti, supereroi, effetti 3D, far esplodere il pianeta 9 volte e volare in aria per trasformarsi non è la sua cosa. Io ho una visione molto diversa di quello che è il cinema può essere, e quindi sono qui su Kickstarter a raccogliere fondi. Ebbene sì, ce l'ha fatta, perché in 30 giorni ha raccolto niente po' di meno che 1.400.000 euro di 1.250.000 che aveva richiesto. I premi per chi sottoscrivesse una quota andavano da un tweet di ringraziamento al premio massimo, che era una cena con Spike Lee in persona e una partita con lui al Madison Square Garden di New York. Per avere questo pacchetto però bisognava offrire almeno $10.000 alla causa. Puntualmente sono arrivati però addirittura da un collega, Steven Soderbergh, un altro regista, che gli ha appunto donato per la sua causa questi 10.000 euro. Ebbene per Spike Lee, sebbene per le piattaforme di crowdfunding, noi andiamo avanti, perché adesso ci ascoltiamo una bella canzone romantica tratta da un film del 1961, Blue Hawaii, il primo film di Elvis Presley girato appunto alle Hawaii. Fool to be. Tra pochi giorni a Venezia la 70ª mostra internazionale di arte cinematografica. Vogliamo sapere un po' di pettegolezzi, un po' di gossip, un po' di quello che succederà direttamente dalla laguna. C'è per noi la nostra inviata specialissima Sara. Ciao Sara. Ciao a tutti, ciao Emanuele. Ciao, allora raccontaci che cosa sta succedendo in laguna, chi arriverà, chi non arriverà. Allora, intanto hai detto giustamente tu, comincia tra pochi giorni, perché è proprio così. Mercoledì 28 agosto c'è l'edizione numero 70 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia, volgarmente detta Mostra del Cinema di Venezia. L'evento sarà ovviamente nella consueta cornice del Lido di Venezia e si concluderà sabato 7 settembre. Ah, perfetto. E chi vedremo calcare il tappeto rosso della Mostra Internazionale del Cinema? Quali sono i VIP che parteciperanno? Ma ce ne saranno tantissimi. Diciamo che è molto atteso William Friedkin, che giovedì 29 agosto riceverà il premio alla carriera, Lindsay Lohan, che è attesa per il 30 agosto, e soprattutto il presidente di giuria, che quest'anno è niente po' di meno che Bernardo Bertolucci. Ci sono sempre, vengono sempre organizzati degli eventi, diciamo a margine della mostra internazionale. Ci sono degli eventi anche questa volta, con che cosa si inizia? Saranno davvero tantissime le feste, gli eventi mondani organizzati attorno alla mostra. Diciamo che possiamo citarne alcuni. Diciamo che già nel giorno prima, quello della preapertura, il 27 agosto, sono previsti due party molto esclusivi. Si parte con la notte dei Dreamers sulla terrazza dell'Hotel Danieli a Venezia, in piazza San Marco, ci sarà un cocktail a invito, ovviamente, organizzato dalla rivista Variety, certo, in onore di, appunto, come dicevo prima, Bernardo Bertolucci, che è il presidente della giuria della selezione ufficiale. E poi si proseguirà alla Palazzina G, che è il luxury hotel veneziano disegnato da Philip Stark, wow, con il party di Uomo Vogue, organizzato da Franca Sozzani in onore delle giurie della mostra. E molto atteso, molto, diciamo, ricercato anche il party che ci sarà qualche giorno dopo, sempre alla Palazzina G, con Sandra Bullock e George Clooney, attesissimi protagonisti di Gravity. Ah, ecco, arriva anche George. Chissà se si incontreranno con la Canalis. Vabbè. Comunque io volevo anche parlare, Emanuele, sì, che è molto importante, di quelle che saranno un po' le categorie. Certo. Allora, ci sarà la categoria Orizzonti, che apre una finestra sulle nuove correnti del cinema mondiale. Ci sarà Venezia Classici, che propone un viaggio nella storia del grande cinema con una selezione molto bella di film classici restaurati e di documentari sul cinema. Diciamo che, ecco, per citarti alcuni autori, parliamo di Roberto Rossellini, di Jean Renoir, di Luchino Visconti. Certo, bellissimo. Ecco, insomma, ecco, esatto. E ancora due sezioni, una dedicata alle proiezioni speciali e l'altra alla Biennale College, che è in realtà un laboratorio di alta formazione aperto a giovani filmmakers per la produzione di film a basso costo. Tutto questo per quanto riguarda la selezione, appunto, ufficiali della mostra. Poi abbiamo la categoria fuori concorso, che apporta sullo schermo opere firmate da autori di importanza molto riconosciuta, e soprattutto attesissimo anche Ettore Scola, al quale lunedì 19 agosto viene consegnato un premio Jaeger Le Couture Glory to the Filmmaker 2013, che è un riconoscimento dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. Passiamo a raccontare ai nostri ascoltatori, se volessero partecipare alla mostra di Venezia, raccontaci come arrivare appunto al Lido e come partecipare alla mostra. Allora, diciamo che intanto, questo proprio per chi non è di Venezia, altrimenti tutti lo sanno, bisogna prendere un bus che ti porta fino a Piazzale Roma. Da Piazzale Roma prendere il vaporetto numero 6 che porta direttamente al Lido. E da lì, ragazzi, veramente è a un tiro di schioppo la mostra. Basta seguire la folla, comunque. Assolutamente sì, perché ci sarà una grandissima confusione e una grandissima folla in quei giorni. Perfetto, bellissimo, bellissimo. Sicuramente immancabile questa 70ª mostra internazionale di arte cinematografica, così è la dicitura ufficiale. E benissimo, noi ringraziamo anche Sara, che è stata con noi e ci ha illustrato le bellezze alle quali potremmo assistere se partecipiamo a questo bellissimo evento che si svolgerà in Laguna. Ti ringrazio, Sara, un saluto. Grazie a voi, ciao. Ciao ciao. Ever as deep old and ever. the Beast. Immaginatevi come si è sentito Peebo Bryson quando la Disney l'ha chiamato per fare questa bellissima colonna sonora. Sicuramente si sarà sentito onorato in prima battuta. In seconda battuta fa: allora bene, il film è La Bella e la Bestia, Celine Dion sarà la tua compagna e lei sarà la Bella. Ecco, cioè, ho detto tutto, Porello, Peebo Bryson. Comunque bellissimo film di animazione del 1991 di Walt Disney. E va bene, e va bene. Questo è Movieland, vi ricordo Emanuele fino alle 19 insieme a voi, ma noi continuiamo perché la musica da cinema, la musica dei bellissimi film continua e naturalmente non si ferma qua. Lui si chiama Eminem, questa è Lose Yourself, da un film dove lui era anche protagonista, 8 Mile del 2002, state con Movieland fino alle 19, buon ascolto! Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows, he knows dove and sold. What you call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me Zombieland. Il cinema alla radio. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Guarda cosa mi ha fatto fare. Ed, qui è successo qualcosa di orribile. Chiunque tu sia, ti sta per chiudere dentro. Aiuto! L'evocazione, dal 21 agosto al cinema. Ciao Frank. Quella chi è? Un guaio. Sono ex agenti CIA, ma i migliori non riposano mai. Come va la vita? Giusto, come va la vita? Per gli Stati Uniti siete terroristi nucleari. Dio ci salvi. Non aveva la minima idea che lei lavorasse per i russi. Non la possiamo uccidere. Red 2. Non c'è niente tra noi. Quanto la odio quella. Da mercoledì 21 agosto al cinema. Noi non siamo imparentati. Mia figlia qui è solo una senza tetto punk. E mio figlio è uno sfigato che vive nel mio condominio. Neanche ci somigliamo. E mia moglie una spogliarellista di quarto ordine. Ok, dimostralo. Abbiamo derubato un trafficante internazionale. Una piccola partita. Tu guadagnerai $500,000 e a me volevi darne solamente 30. E a me ha detto solamente 1,000. Non ho capito, vi pagava. Come ti spaccio la famiglia dal 12 settembre al cinema. Rovinarti gli occhi! Mamma! Cinture! Ciao mamma! Sorridete! Divertitevi ragazzi! Io resto qui ad ascoltare le mie canzoncine! Monsters University, dal 21 agosto al cinema. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Movieland, il cinema alla radio. E come ogni settimana siamo arrivati alla consueta rubrica con il portale del cinema Filmapp. Naturalmente il portale del cinema Filmapp lo potete trovare all'indirizzo filmapp.com e trovate tutte le notizie cinematografiche che desiderate. Noi questa settimana finalmente siamo tornati in diretta, in viva voce, con Erika Melis, la responsabile di redazione. Buongiorno. Buongiorno a te. Finita la pacchia, finite le vacanze, sei tornata al lavoro, meno male. Eh sì, purtroppo. Sei felice? Moltissimo. Vabbè. Sorvoliamo, parliamo di cose interessanti, di cinema, come ci piace fare a noi. E benissimo, quindi abbiamo scoperto l'arcano. Io non so se ricordate, due settimane fa avevamo dato la notizia che Sylvester Stallone su Twitter si era scagliato contro Bruce Willis. Ma cosa è successo? È successo che a quanto pare le pretese di Bruce Willis non sono piaciute né a Sylvester Stallone né alla produzione del sequel dei Mercenari, che ormai è arrivato al terzo episodio, perché per 4 giorni di lavoro lui chiedeva, diciamo, la piccola cifra di $4 milioni, $1 milione al giorno. Poverino. Mentre la produzione era disposta a sborsarne solamente 3, per cui io... che non sono andati proprio, non hanno trovato un accordo. Io lo capisco Bruce Willis, io per meno di €1 milione al giorno non mi alzo neanche dal letto, insomma. Ah, è giusto, certo. No, questo ha creato non pochi problemi tra i due, anche perché Stallone è andato giù pesante, l'ha definito ingordo, pigro, insomma un modo giusto per rovinare una carriera. Ottimo. Non penso che i rapporti ora siano molto idilliaci tra i due. E quindi è stato sostituito Bruce Willis da Harrison Ford, giusto? Esatto, sì, è stato sostituito da Indiana Jones in sole 72 ore. Per lui invece Sylvester Stallone ha avuto parole veramente di affetto, di stima, l'ha definito una brava persona, un bravo attore, professionista, insomma l'esatto contrario di quello che è successo con Bruce Willis. Beh, fin quando non litigheranno anche loro e vabbè. Ok, Bruce Willis quindi protagonista di questo gossip hollywoodiano, ma protagonista anche di uno dei prossimi film che esce in sala, Red 2. Esatto. quali sono le uscite appunto di questa settimana? Oltre a Red 2, che è vabbè, il seguito di Red, una commedia d'azione dove un gruppo di attempati ex agenti della CIA viene richiamato, diciamo, in servizio, capitanati proprio da Bruce Willis. Poi invece per i più piccoli ci sarà Turbo e anche Monsters University, che è un prequel di Monster & Co, che è insomma un film d'animazione storico, sì, che è bellissimo. E infine per chi ama un po' i brividi ci sarà L'Evocazione, che in teoria è basato su una storia vera, quella dei coniugi Warner, che vengono chiamati in una casa per gestire delle presenze demoniache, insomma sarà veramente da brividi. Interessante, l'estate abbiamo visto, abbiamo capito che è stagione di horror e di film di genere, comunque ci piace perché non si vedono troppo spesso. Il botteghino, raccontaci chi è arrivato primo questa settimana o la settimana passata. Guarda, è ancora primo Wolverine Immortale, ormai da 2 o 3 settimane se non ricordo male, però gli incassi sono veramente scesi a livelli giustamente con le vacanze di mezzo, a livelli ai minimi storici, mi sembra che non si aggiri il primo neanche arrivi a 300.000 euro. E poi c'è una sola novità sul podio, che è il sequel di Kick-Ass 2, che è arrivato in sala la scorsa settimana. Benissimo, quindi il caldo estivo è stato complice di questo abbassamento degli incassi, speriamo che con il ritorno dalle ferie e l'arrivo di settembre questa tendenza migliori, ma dovrebbe essere un calo fisiologico, tutti gli anni più o meno funziona così. Esatto, sì. Purtroppo da noi il cinema estivo non acchiappa, diciamo, non va spettatori. Tantissimo. Benissimo. Io ringrazio Erika Melis, che ancora una settimana di nuovo è stata con noi. Il portale del cinema filmup.com, che ogni settimana ci offre queste notizie interessantissime. Ti do appuntamento alla settimana prossima. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, saluti a tutti. Movieland, il cinema alla radio. Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain. E guardami un attimo, dai, take a look at me now, per favore, dai. Lo cantava Phil Collins nel 1984, la colonna sonora di questa bellissima Against All Odds, Due vite in gioco, il titolo italiano di questo bellissimo film romantico, molto bello, veramente. Abbiamo oltrepassato la mezza, ci stiamo avviando verso la conclusione del programma, verso l'ultima mezz'ora, anzi gli ultimi 20 minuti, e vogliamo parlare di una notizia che in questi giorni sta su tutti i siti internet che parlano di cinema. Non capisco quale sia l'interesse, sinceramente. Comunque, Batman, niente po' di meno, avrà il volto di Ben Affleck nel nuovo film con Superman. Ben Affleck succede a Chris Bale nei panni dell'uomo pipistrello. Infatti l'attore sarà Batman nell'atteso nuovo lavoro targato Warner Bros. E diretto da Zack Snyder, Batman Superman, che il titolo ancora è da definire, loro li hanno messi insieme, non si sa mai. Lo comunica ufficialmente la Warner attraverso le parole del presidente Greg Silverman: avevamo bisogno di un attore straordinario per questo progetto e Ben Affleck possiede di sicuro questo requisito. Bah. Ben Affleck si aggiunge così al cast già composto da Henry Cavill, Amy Adams e Diane Lane, che nel film ricoprono gli stessi ruoli già interpretati nel recente film L'Uomo d'Acciaio, che mi sembra, se non erro, non abbia avuto grandissime critiche. Comunque, bah, siamo qua. Allora, adesso ci ascoltiamo una bella canzone che viene dal passato, ma che è stata utilizzata in un film recente. Infatti stiamo parlando di Turbo, il film di animazione della DreamWorks che è in sala in questi giorni, che utilizza questa canzone qua. Ve la ricordate? Ebbene sì, questa era anche di Rocky, ma sì, sono i grandissimi Survivor con Eye of the Tiger, che è stata utilizzata per sonorizzare le lumache volanti, le lumache che corrono in pista. Ebbene sì, Turbo Movie Land sulla vostra web radio preferita insieme a Emanuele fino alle 19. Vi ricordo, restate con noi tutte le settimane in questo bellissimo programma di approfondimento cinematografico. Time took my chances. Weekend, oggi vogliamo parlare di ritrovamenti un po' particolari e vogliamo parlarne con la persona che poi ha ridato vita a questo ritrovamento particolare. A Udine, nel Friuli, è stato ritrovato un film inedito di Orson Welles, addirittura un film datato 1938. Ne parliamo con il direttore della Cineteca del Friuli, Livio Jacob. Buona serata. Buona serata a lei. Allora, non a Udine ma a Pordenone, e non è secondario il fatto che sia stato trovato a Pordenone, perché proprio a Pordenone che si svolge il festival, le giornate del cinema muto, più tutta una serie di altre manifestazioni legate al cinema ritrovato, per cui è un ambiente insomma molto vicino a, così, ai cinefili e agli storici del cinema, che questi materiali sono stati, non dico casualmente, ma insomma molto fortunosamente ritrovati. Come mai la pellicola è stata ritrovata lì? Che cosa ci faceva? Cioè, come ci è potuta finire? Abbiamo tentato di capirlo anche noi, però secondo così le ipotesi che si sono fatte, la pellicola è passata attraverso vari corrieri, per qualche motivo poi nessuno l'ha, molti anni, questo è accaduto molti anni fa, insomma, nessuno l'ha ritirata da dove era arrivato, insomma, dal deposito di un corriere dove era arrivata e quindi è rimasta lì per qualche anno. Successivamente è stata segnalata a Cinema Zero di Pordenone la presenza di questo, di questa pellicola. Da lì a quando poi effettivamente si è scoperto che c'erano questi preziosi materiali di Orson Welles, è passato un po' di tempo, ma non molto, si è capito subito che si trattava di materiali wellesiani, ma soltanto con un'indagine successiva si è capito insomma che ci si trovava di fronte a un pezzo raro, quindi insomma è partita un'operazione di restauro che ha portato al lavoro di preservazione. Oltretutto si tratta di una coppia nitrato infiammabile e quindi con la necessità, per poterlo vedere oggi, proprio di preservarlo sulla pellicola di sicurezza di oggi. Ma meno male che in Italia non buttiamo via niente. Allora, però ha corso veramente dei grossi rischi. Stato di cantina in cantina, insomma, poi le condizioni di stoccaggio non giovane, insomma. Certo. Diciamo il titolo, si chiama Too Much Johnson, un film del 38, quando Orson Welles aveva appena 23 anni, un film che dura, che è un incompiuto, diciamo, dura 40 minuti. Sì, è incompiuto, nel senso che Welles lo voleva proiettare al Mercury Theater, che lui dirigeva a quell'epoca assieme a Joseph Cotten e a New York, insomma, ai maggiori uomini di teatro del tempo. Lo voleva proiettare assieme ad una rappresentazione teatrale che aveva lo stesso titolo, però questa operazione si è rivelata più complessa di quello che si poteva pensare. Ci sono due motivi per cui l'operazione è rimasta, diciamo, a due terzi o a metà. Una forse di diritti, pare che ci fossero dei diritti della Paramount che erano accampati dalla Paramount sul testo teatrale da cui è tratto il film, e questo ha affermato Welles, che all'epoca non navigava certamente nell'oro, di idee, ma insomma era ancora il Welles che insomma non aveva ancora fatto Quarto Potere, per capirci. L'altro motivo era che è un motivo tecnico, perché trattandosi di una pellicola infiammabile era difficile e pericoloso proiettarla durante una rappresentazione teatrale in un teatro che non ne fosse, che non fosse insomma attrezzato, preparato bene per poter proiettare questo tipo di film, che si proiettavano nei cinema ma non nei teatri, e quindi Welles ha deciso di rinunciare a concludere il film. Si è tornato sopra qualche volta, pare un paio di altre volte, anche negli anni 60, però poi l'ha sempre abbandonato e lo troviamo, e come l'abbiamo trovato noi, è un'operazione ancora in corso. adesso per il momento noi lo presentiamo alle giornate del cinema muto, anche perché si tratta di un film che è un omaggio proprio al cinema muto, alle comiche, è girato come una comica, insomma è molto molto quello che si vede è divertente, insomma è posto giusto, insomma, per farlo vedere per la prima volta in Italia è ovvio che le giornate del cinema muto, essendo stato ritrovato lì a Pordenone, le giornate del cinema muto si svolgono da 32 anni. Benissimo, e questo avverrà il giorno 9 ottobre appunto all'interno di questo festival, appunto sarà la prima mondiale, la prima nazionale di questo film. Sì, la prima mondiale. La prima mondiale. O perlomeno ogni tanto abbiamo anche qualche primato. Io ringrazio Livio Jacob che è stato insieme a noi della Cineteca del Friuli. Invito tutti gli ascoltatori di Movieland ad andare il 9 di ottobre quindi a Pordenone per le giornate del cinema muto e vedersi questo bellissimo pezzo di storia del cinema ritrovato di Orson Welles. Grazie Livio. Grazie a voi. Un saluto. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Ebbene sì, scende la pioggia su di me. Raindrops keep falling on my head di B.J. Thomas, questa canzone del 1969 che è stata scritta proprio per il film Butch Cassidy. Bella, arrivata dal lontano passato, ma che ci piace molto sempre ricordare questi bei pezzi. Adesso diamo spazio a una nuova rubrica. Ebbene sì, Movieland è in crescita, quindi vi potete aspettare nuove rubriche, nuove cose ogni settimana che passa. Movieland, vi ricordo che è il vostro programma di approfondimento cinematografico tutti i sabati dalle 18 alle 19 sulla vostra web radio preferita. Benissimo, allora qual è questa rubrica nuova? I film in TV, eh sì, infatti, perché il cinema si può sfruttare benissimo, si può andare a vederlo appunto nel suo luogo culto che è il cinema, la sala cinematografica, però anche ben seduti sul divano, comodi eccetera, si può lo stesso oggi, specialmente con questi mega schermi da 60, 80, 90 e 100 pollici, i film si vedono quasi come al cinema, quindi la televisione offre qualche volta l'offerta cinematografica. Infatti noi abbiamo raccolto 4 dei film che verranno emessi questa sera. Alle 21:10 su Italia 1 ci sarà Waterworld del 1995, diretto e protagonista anche Kevin Costner, con Kevin Reynolds come secondo regista. Poi alle 21:10 sulla 7 ci sarà Stregata dalla Luna, una commedia romantica con Cher del 1987. Chi interessasse, poi in seconda serata invece, dalle ore 23:10 in poi, su Rete 4 ci sarà La forza del perdono del 2010, un film sulle reazioni di una comunità Amish a una cosa che succederà abbastanza grave, non vi dico altro. E poi sempre su Italia 1 alle 23:50, quindi dopo Waterworld, potremo assistere alla pellicola comica Austin Powers in Gold Member del 2002 con Mike Myers. Ebbene sì, insieme a Mike Myers c'era anche a protagonizzare questa pellicola la bellissima Beyoncé Knowles, chiaramente, che interpretava Foxy Cleopatra, e insieme hanno fatto con Mike Myers un medley che noi ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Hey Gold Member, che è praticamente la rivisitazione di tre canzoni degli anni 70: That's the way I like it, Get Down Tonight and Shake Your Booty. Siamo pronti? Eccola qua. Naturalmente io su questa vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Emanuele con Movieland, buon ascolto sulla vostra web radio preferita. Sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!